140 caratteri. Una settimana di spettacoli. Di Marta Cagnola. Un saluto da Marta Cagnola, gli spettacoli, i protagonisti, le storie, il dietro le quinte. Abbiamo seguito tutti gli eventi questa settimana, li abbiamo raccontati in tempo reale su Twitter con il mio account @MartaCagnola. Ecco il protagonista dell'intervista di oggi di 140 caratteri. Universal Music Milano. Anni di gavetta e finalmente Sanremo. Dopo la corsa tra i giovani, Francesco Guasti esce con il suo album Universo. Come canti in Universo? Il mondo comincia adesso, Francesco? Ma sicuramente sì, il mondo parte da ora, eh. Sicuramente un bel traguardo quello di Sanremo, però partiamo da questo nuovo progetto e ora ho messo le scarpe, io corro verso il mio presente e spero e cerco di costruire il mio futuro. Un Sanremo che non t'hanno esattamente regalato, perché te lo sei dovuto guadagnare con un bel po' di tentativi. Sì, questo era il quarto anno consecutivo, non mi hanno regalato affatto questo Sanremo, però probabilmente alle porte in faccia è nato qualcosa di buono, infatti è nato questo brano e questo disco e quindi sono veramente contento. Ben vengano le porte in faccia se poi riusciamo a portare i risultati a casa. Ci esorti a vivere sempre con quella follia che ci aiuta a rincorrere sempre i nostri sogni, a non stancarci mai. Sì, io quest'anno quando mi sono riscritto sono dato un po' il terreno, in tanti mi hanno detto guarda che l'anno scorso è arrivato a un passo, sei tra i 12, non ti riscrivere, in qualche modo mi hanno dato del folle, no? Infatti la canzone dice proprio siamo fatti per essere folli, ma siamo fatti per restare folli, in qualche modo ho cercato di rimanere folle nella mia follia, ho mantenuto fede al mio sogno e sono riuscito a realizzarlo. Sotto questo cielo stellato e con la musica canto speranze, il futuro di chi se lo prende. Oggi ho messo un bel paio di scarpe e sono andato incontro al mio presente. Sono stato da entrambe le parti, consapevole ed incosciente. La natura dell'uomo ha i suoi vizi e con gli errori si cresce da sempre. In questo universo arriverò presto, il mondo comincia adesso. Perderci nell'universo senza più limiti, ma quel che hai dentro sputi sentenze. Per arrivare sul palco di Sanremo ne hai fatte tante, hai scritto tanta musica, hai fatto tanti live, hai fatto tanta quella che si chiama gavetta, hai fatto anche un talent show che era The Voice. Cosa ti aveva lasciato quell'esperienza? Ma sicuramente mi ha aiutato ad avere un po' più di padronanza nel mondo dello spettacolo, no? Perché alla fine Sanremo è anche uno spettacolo televisivo, soprattutto uno spettacolo televisivo, quindi mi ha aiutato un po' a essere un po' più sciolto e poi mi ha dato la possibilità di conoscere tanti artisti, tanti personaggi del mondo della musica, no? Addetti ai lavori, ho avuto modo grazie a The Voice di collaborare con Piero Pelù, quindi è stata veramente un'esperienza importante. Però anche questa è una piccola esperienza da inserire nel tassello, no? del puzzle che poi fa parte della mia musica. Adesso tra le esperienze c'è un album, 9 tracce, c'è anche l'universo in acustico, è un passo importantissimo un album col tuo nome sulla copertina, la tua faccia che ricorda che è proprio tuo. sì, fa un certo effetto averlo anche tra le mani. Sì, è bello, partiamo da qua, proprio come dicevo prima, un album di 9 canzoni, 9 storie che ho messo in parola e musica, che porterò un po' in giro per l'Italia, spero che arrivino i messaggi, no? Poi alla fine fare questo lavoro è quello di lanciare messaggi, è quello di dare anche a volte speranza alle persone in un momento difficile, oppure accompagnarli come colonna sonora delle proprie giornate, in macchina, mentre sono a lavoro. Penso che la musica debba fare questo e quindi spero che questo messaggio, spero di poter fare questo per tante persone che ascolteranno. Posto e ti difenderà a qualunque sasso ti fa morire, ma lo sai, le ferite possono guarire. A proposito di desideri, e poi bisogna portarlo anche in tour, quest'album. Sì, sì, cercheremo di portarlo in giro per l'Italia, che è la cosa poi fondamentale, no? Io quasi faccio, ho provato a fare Sanremo proprio per questo, perché poi dopo puoi fare un tour, puoi girare un po' con la tua musica, con il tuo disco, che non è così semplice. Purtroppo l'Italia è un po' legata più a musica già sentita, no? Che dare spazio invece alla musica emergente. Quindi Sanremo probabilmente ti dà una tacchettina in più, un aiuto in più per poter portare la tua musica originale in giro, non solo per i locali, ma nelle piazze, insomma nelle feste, dove le persone hanno voglia di ascoltare musica, hanno voglia di emozionarsi e di divertirsi. Però se c'è una cosa che ho capito di Francesco Guasti, mentre passano sirene ma non sono per noi, è che Francesco Guasti non si arrende. No, mai. Chi si ferma in qualche modo è perduto. Bisogna perseverare, quello che mi hanno insegnato i miei, e quindi io l'ho fatto mio, me lo sono tatuato proprio sulla pelle, quello che cerco di fare. Ed è tutto per questa puntata di 140 caratteri con Francesco Guasti. Continuate a seguirci ogni giorno con il mio account Twitter @MartaCagnola. Le interviste di 140 caratteri tornano ogni domenica dopo il giornale radio delle 8.